A tempo di sport. Splendida domenica pomeriggio, amici ascoltatori, ci siamo divertiti assai e stasera c'è Juventus Udinese, ma per come va l'Udinese adesso credo che la Juventus si divertirà ben poco. Juventus che è uno dei temi di discussione del momento, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, e parleremo più tardi anche di Juventus. Intanto io chiedo a Giovanni Capuano, nostro inviato al telefono oggi, di riepilogarci un po' com'è andata questa giornata. Giovanni. Allora, ricordando ovviamente il 2-0 della Lazio sulla Fiorentina e il 2-0 del Milan a Catania di ieri nell'anticipo delle 12:30, il 3-0 del Chievo a Brescia con doppietta di Pellissier e gol di Mandelli, e poi nel pomeriggio non si è giocata Bologna-Roma, sospesa dopo 17 minuti per impraticabilità del terreno di gioco a causa della neve, quindi si ripartirà dal 18esimo minuto, quindi Cagliari batte Bari 2-1, doppietta di Matri all'ottavo al 12esimo, gol di Okaka al 14esimo, sbagliati due calci di rigore Rudolf e Acquafresca, 3-1 del Genoa sul Parma, rete di Palacio sul rigore al 16esimo, pareggio di Crespo al 32esimo, autorete di Paletta al 44esimo, tutto nel primo tempo, così come il 3-1 di Calazze un minuto dopo, quindi 3-1 finale. Poi c'è il 3-2 dell'Inter sul Palermo con i siciliani in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, al quinto Miccoli, al 36esimo Nocerino, poi nella ripresa l'ingresso di Pazzini cambia il volto alla partita, al 12esimo il gol del 2-1, poi il rigore sbagliato da Pastore, al 28esimo il 2-2 ancora di Pazzini, che poi si procura anche il calcio di rigore che al 31esimo Eto realizza per il gol del 3-2, poi 1-1 tra Lecce e Cesena, il vantaggio del Lecce con Corvi all'11esimo nel primo tempo, il pareggio di Bogdani al 93esimo nella ripresa, Bogdani che aveva anche mancato su rigore già in precedenza la rete dell'1-1, e poi ancora da segnalare il 4-0 del Napoli sulla Sampdoria, tripletta di Cavani, un gol su calcio di rigore e rete di Hamsik. Questi dunque i risultati in attesa di Juventus Udinese, rapidamente la classifica che dice così: Milan primo con 47 punti, 4 di vantaggio sul Napoli a quota 43, poi la Lazio a 40, Inter e Roma 38, Juventus 35, Palermo 34, Udinese 33, Cagliari 29, giù fino alla zona calda dove in questo momento sarebbero retrocesse Cesena, Brescia e Bari con 20, 18 e 14 punti, poco più su Lecce a quota 21 e Catania a quota 22, da segnalare che così come Inter e Fiorentina a questo punto anche Bologna e Roma e ovviamente Udinese e Juventus in attesa del posticipo di questa sera hanno una partita in meno. Perfetto, grazie Giovanni. Dunque il quadro emerso dalla giornata, la cronaca emersa dalla giornata è questa, il resto e commento lo farete voi, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Il primo è Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera, pensavo di... sono tifoso dell'Inter, sì. Pensavo... buonasera Trocenta, innanzitutto, buonasera, che è cordialissimo e preparatissimo. Pensavo di stare un po' più tranquillo dopo la maratona di mercoledì, però a prescindere questa squadra comunque va amata perché regala delle emozioni, proprio più viene così dibattuta, viene anche così insomma non lodata come un'altra, sì, parte di Milano, e più ha delle risorse che veramente ha... è un orgoglio essere, diciamo, è divertente, lei dice, è divertente, sì, essere interisti, sì, questo posso capirlo, sì. È anche vero che beccando due gol a partita le emozioni si moltiplicano magari in maniera un po' ingiustificata, Sì, vabbè, magari il primo gol, non voglio dire, ci stanno i rigori, perché io le moviole non, sì, non le guardo perché distoglie la realtà, perché la realtà, il tempo. Sì, no, cioè, ma sono d'accordo, io sono nell'idea che si debba guardare il quadro intero della partita, altrimenti potremmo anche dibattere, sì, sul gol che, sì, ha dato, sul rigore che ha dato la vittoria all'Inter, mi sembrava chiarissimo, ma comunque tant'è. Io le faccio sentire Leonardo che sta per parlare con Sky, anzi che sta parlando con Sky. Sì, perché è una partita bellissima. Pazza Inter, pazza Inter davvero. Va bene, veniamo da Andrea Paventi e poi le nostre domande. Sì, io volevo subito sapere da Leonardo cosa è servito oggi, il coraggio di quei cambi alla fine del primo tempo, è stato determinante l'orgoglio di una squadra che non voleva già uscire oggi forse dalla lotta a scudetto se avesse perso, qual è stata proprio la chiave di questo match? No, innanzitutto credo che non, anche se ci fosse stato un altro risultato, non credo che eravamo fuori di niente. credo che siamo partiti, diciamo, con una certa difficoltà, siamo stati subito diciamo, colpiti da una grande squadra come il Palermo. Anche così, perché abbiamo finito sicuramente il primo tempo sotto due gol, ma creando non so quante occasioni da gol, ma 9-10 occasioni da gol, qualcuna più chiara, qualcuna meno chiara, ma comunque tante occasioni da gol. Il secondo tempo ci voleva per forza, diciamo, il coraggio, la personalità anche di una squadra che era una situazione molto difficile, e ribaltare così un risultato credo che sia un segnale straordinario, perché la squadra si è comportata in un modo, tutti, dopo gli episodi, insomma, il rigore parato da Giulio Cesare, che è tornato anche in extremis perché Luca Castellazzi non ha potuto giocare, in extremis ha giocato lui, vuol dire il pazzo che fa un esordio alla panchina, esce per una partita che si sta perdendo 2-0, fa due gol, subisce un rigore e si vince questa partita, vuol dire tutti gli altri, Milito che era entrato prima, vuol dire se l'elenco è enorme di quello che è stato fatto Maicon, che ha fatto un'altra partita straordinaria, Ranocchia e Lucio, grande partita, vuol dire tante cose positive. Abbiamo visto nel secondo tempo insieme Pazzini e Milito, soluzione di giornata, o secondo te riescono a tenere la squadra equilibrata loro tre insieme se dovessero giocare magari una volta dall'inizio? Guarda, ci sta tutto, quanto più diciamo alternative abbiamo, ci sta tutto, io credo che sono partite e partite, il lavoro che ha fatto Eto'o nel secondo tempo è straordinario, perché era lui che andava, che dava ampiezza alla squadra, che puntava l'uomo e dopo copriva dietro, perché avevamo bisogno in quel momento lì, anche se la squadra era molto alta, e riuscivamo a rubare palla ancora nella metà campo avversaria. Per quello credo che quando hai giocatori così, ma non solo, anche lo spirito, è vero che siamo partiti un po' piano, però dopo abbiamo ripreso, diciamo, la partita, abbiamo avuto sicuramente, abbiamo subito una squadra che ha grandissimi giocatori come Palermo, e quello sicuramente ci ha fatto svegliare il secondo tempo con una squadra molto sbilanciata in avanti, e abbiamo vinto una partita che sinceramente è una partita da grandissima squadra. Così Leonardo, che ha visto una vittoria da grandissima squadra. Le grandissime squadre, torno a ripetere, secondo me almeno non beccano due gol a partita in maniera sistematica. Però discutiamone. 800240024, traffico, poi c'è Ettore da Bari, poi andiamo a San Siro da Dario Ricci, poi vorrei parlare con un ospite atteso anche della situazione della Juventus dopo la conferenza stampa di ieri di Andrea Agnelli. A dopo. Nuova Passat, sempre un'idea avanti. Scopritela dai concessionari o su Volkswagen.it. Vi presenta Strade in diretta. Traffico intenso e rallentato lungo la A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Ala Avio in direzione Modena. Lungo la statale 18 Tirrena Inferiore il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Salerno e Fuorni sulla carreggiata sud. Circolazione scorrevole sul resto dei percorsi. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, sono in atto deboli nevicate al nord in Emilia e tra Piemonte e Liguria. Non si segnalano comunque particolari disagi. Nevischio anche sui tratti appenninici abruzzesi. Piogge sparse invece sono in corso sul resto delle zone al centro-sud. A chi viaggia in treno ricordiamo infine che prosegue fino alle 21 di questa sera lo sciopero del personale ferroviario proclamato dal sindacato autonomo Orsa. Molte le cancellazioni e i ritardi soprattutto per i treni regionali o a media percorrenza. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. E anche a tempo di ironia, perché c'è chi scrive divertirsi con l'Inter è facile perché comunque vada, il regalo arbitrale arriva puntuale, Michele, oppure un altro ascoltatore che scrive: con che coraggio Benitez non schierava Pazzini, Motta, Ranocchia e Carja? Fortuna che è arrivato Leonardo. Beh, Motta non lo schierava perché era infortunato, chiaramente gli altri tre, come sapete, sono arrivati dopo. Dario Ricci? San Siro. Sì, eccoci da San Siro, Carlo. Cosa si dice da quelle parti? Se abbiamo sentito insieme al nostro ospite Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, le parole di Leonardo, allora sentiamo anche cosa ne pensa Andrea. Veramente questa, Inter pazza, l'abbiamo già detto, ma questo tridente Eto'o, Pazzini, Milito può essere una soluzione strutturale o comunque invece ultima carta in partite da ultima spiaggia come quella di oggi? Buonasera a tutti, no, non credo che possa essere una soluzione per il futuro, perché ecco, è stata adottata proprio perché l'Inter era sotto di due gol e abbiamo visto quanti problemi poi in fase di copertura abbia portato all'Inter, perché l'Inter comunque ha concesso in tutta la partita almeno una decina di occasioni limpide al Palermo e da un certo punto di vista è stata anche un po' fortunata, però poi Pazzini ha risolto i problemi in attacco, due gol e un rigore procurato, e adesso oggi l'Inter, diciamo così, canta vittoria ed è giustamente felice del suo risultato. Però guardando le partite di calcio bisogna anche notare spesso altre cose. Io dico che la difesa dell'Inter oggi ha sofferto tanto, troppo, in modo insostenibile per poter coltivare poi speranze per il futuro. Ecco, devono aggiustarsi molto lì. Partita che è la bocciatura di Coutinho e Santon dopo questa, dopo questo primo tempo pieno di errori, incertezze e poi la sostituzione nell'intervallo. Sai, Santon è, non riesce ad andare mai al di là di una bocciatura in tutte le partite che disputa. Questo è un caso abbastanza serio secondo me, perché è un giocatore che non si è mai più ripreso dal periodo di appannamento che lo aveva colto un annetto fa, ha avuto anche un sacco di infortuni, ma insomma oggi ha compiuto degli errori piuttosto evidenti, proprio di attenzione, di concentrazione, e non va bene, evidentemente c'è da lavorare sulla psiche del ragazzo più che sulla, sull'aspetto tecnico, poi anche su quello ovviamente. Coutinho è il Coutinho che conoscevamo nella prima parte della stagione, è un giocatore che è ancora troppo giovane, troppo piccolo fisicamente per poter competere in Serie A, e si vede proprio a occhio nudo che non è in grado di far valere la forza fisica che sarebbe necessaria a questi livelli, quindi sono stati giustamente tutti e due sostituiti. Tra i vari, tra le varie delusioncine della giornata, comunque io aggiungerei anche Ranocchia, che sul primo gol del Palermo ha commesso un errore piuttosto evidente che in Serie A non si dovrebbe commettere. Questo per quanto riguarda poi i lati negativi. Poi l'Inter ovviamente ha giocato anche un grande secondo tempo di impeto, di rabbia, e con Pazzini ha vinto. Ti chiedo, guardiamo un attimo in casa Palermo, insomma lodi per questa squadra che ha avuto le sue occasioni per uccidere il match e le ha sprecate, però forse un appunto ai tre davanti, splendidi Pastore, Ilicic e Miccoli, però forse nel secondo tempo hanno un po' tirato indietro la, la gamba, forse dal punto di vista della personalità. Il problema del Palermo è che è una squadra di individualità ottime, quasi tutti e 11 quelli che oggi erano in campo erano giocatori di ottimo livello e hanno anche mostrato delle qualità interessantissime. Il problema è che poi come squadra proprio si sbriciolano lentamente, non riescono a farsi forza delle proprie qualità e dei propri talenti e improvvisamente cominciano a perdere il controllo della, della partita, e questo non va bene. Credo che sia un problema che chiami in causa proprio la gestione psicologica del gruppo, forse più ancora che l'aspetto tecnico-tattico. Quanto ai tre davanti, la delusione della giornata è ovviamente Flaco Pastore, a cui non riesce di giocare una partita decisiva a San Siro, e questo magari può essere, può volerci dire qualcosa secondo me, perché è un problema anche di personalità ad altissimo livello che o si ha o non si ha. Finora Pastore ha dimostrato di non averla. Io personalmente continuo, mentre tutti intorno fanno un gran baccano su Pastore, continuo a preferirgli Ilicic, che mi sembra un giocatore con delle caratteristiche più interessanti, però forse sbaglierò io. Ah, direi di no per quello che si è visto magari anche oggi, perché Ilicic è stato l'ultimo dei tre a sciogliersi. Sì, Carlo. Sì, sì. Grazie Dario, ti ringrazio. Infatti, grazie a te. Anche Andrea Sorrentino. Grazie a te e ad Andrea Sorrentino. Una battuta di Mazzarri invece, molto sorridente. Problema. È il contrario, tre giorni fa stavo peggio quando siamo usciti a rigori con l'Inter in quel modo, quindi oggi sono un pochino più sollevato. È ancora forse un po' più sorpreso, nel senso che questa squadra continua a stupire. Se l'aspettava a questo punto della stagione un rendimento e ovviamente una classifica così importante? La classifica non ci ho mai pensato e non ci penso mai. Penso a allenare meglio possibile i miei giocatori, i giocatori che la società mi mette a disposizione. Quest'anno abbiamo avuto il vantaggio di iniziare dopo aver fatto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo messo delle basi solide, un'organizzazione di gioco, dei meccanismi, lo zoccolo duro dei giocatori è rimasto e probabilmente siamo stati in quest'annata avvantaggiati da quello che già di buono avevamo fatto l'anno precedente. Napoli sta benissimo, il Napoli sta veramente benissimo anche dal punto di vista fisico, perché dopo la partita di due giorni fa con l'Inter, tra l'altro persa quindi in quel modo, immeritatamente come ben sapete, ai rigori eccetera eccetera, è riuscito a giocare una partita di una consistenza anche fisica pazzesca. Napoli sta veramente bene, e poi fino a quando le sue tre stelle là davanti giocano su questi livelli, mi voglio dire il limite al cielo, no? Per Mazzarri. In questo momento è così, certamente così. Gianmarco da Firenze, poi Ettore da Bari. Buonasera Gianmarco. Buonasera. Dica. Vorrei solo una cosa. si può evidenziare gli errori macroscopici compiuti dalla dirigenza della Fiorentina nel cedere Pazzini con quella facilità? Mm. Era un giocatore di queste parti che qui ci stava benissimo, aveva 24 anni. Sì. Ed è stato mandato via perché Prandelli non lo vedeva, sì, non lo faceva giocare, lo faceva giocare largo. Sì. Cioè è stato buttato via, ah, questo giocatore da un po' sì, un po' sì, un po' sì, o meglio gli è stato preferito Gilardino e si è detto la prima punta titolare è Gilardino, a Pazzini restano i Brandelli e quindi è andato via. Ma no? L'avevamo già in casa, si poteva non prendere Gilardino. Ah, questo è un altro ragionamento, certo, però lei sa benissimo come Gilardino sia sempre stato uno dei favoriti dell'attuale CT, no? Quindi vedeva più Gilardino di Pazzini, gli hanno detto probabilmente preferisci uno o l'altro, prendo Gilardino, a quel punto per Pazzini non c'era più posto e si è stufato di far panchina, è andato a Firenze, a Genova e ha fatto molto bene a andare via, molto dalla Fiorentina? Bene. Molto bene. E lei ha 24 anni che fa la riserva? Infatti, con le sue qualità. Ha fatto benissimo. E gli auguro una grande carriera. Grazie Gianmarco. Prego. Coraggio, perché non è un momento facile per la Fiorentina, così come per il Brescia. Oggi contestazioni dopo il 3-0 interno con il Chievo e dicono le agenzie Beretta in bilico vicino al ritorno di Iachini. Ettore da Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io sono un tifoso juventino e sinceramente ho sentito anche ieri la conferenza del presidente Andrea Agnelli. Io personalmente dico che sono stato da sempre un sostenitore di Andrea Agnelli, un po' diciamo a sfavore invece della gestione Elkan precedente. Sì. Non mi ha convinto però un qualcosa. Il discorso, noi, secondo me, la Juve non ha bisogno esclusivamente di soldi, ma di spendere bene quei soldi. Sì. Perché in realtà i 12 milioni di Pazzini che sono stati spesi dall'Inter più via Biani, quei soldi sono stati spesi per Martinez, per la parte della Juve. Sono soldi che mi sono sembrati un po' gestiti male e spesi male. Questo mi aspettavo un qualcosa di più, diciamo, da Marotta, nel senso non di avere qualche soldo in più perché sicuramente non li doveva mettere lui, certo, però quei soldi di saperli spendere bene. Sì, però, Ettore, qui mi pare che il discorso sia un po' più profondo e vada al di là di Martinez, il discorso sulla Juventus, che io vorrei fare con Marco Ansaldo, mio amico inviato della Stampa. Ciao Marco. Ciao ciao. Discorso sulla Juventus che mi pare che vada al di là di Martinez, spendere i soldi bene e siamo d'accordo. Conferenza stampa di ieri di Agnelli, ha impugnato lo spadone e ha difeso tutto e tutti con toni molto, molto risoluti. Allora, la sensazione è, Marco, comunque, che sia difficile in questo momento, ha fatto molta chiarezza, sia difficile in questo momento dar torto a questa gestione della Juventus, che mi pare abbia cominciato, oggi è difficile dirlo perché non si vedono quei mattoni, però mattoni per il futuro sul campo ci sono e si è ripartiti da zero, e sono i primi mattoni, perché mi pare che Aquilani, Krasic, Quagliarella, in parte Pepe, siano comunque giocatori che per la prima volta, sui quali per la prima volta si può costruire qualcosa. Sì, in una prospettiva molto ma molto ma molto futura, hai ragione. Io credo che comunque la Juve partisse da macerie evidenti. Questa gestione si è trovata a dover costruire una squadra che non aveva nemmeno, diciamo così, un'ossatura credibile. Non aveva nemmeno un giocatore lasciato dalla precedente gestione. Sì, insomma, adesso non esageriamo, però insomma, Chiellini ad esempio l'aveva, insomma. No, ma dalla gestione Blanc, Cobolli, insomma, è chiaro, no, che c'era Cobolli, Buffon, eccetera. Cobolli, Chiellini, gli stessi Buffon e così via, ne ha lasciati, non è che proprio sì. Mancava un'ossatura di squadra che adesso, nel giugno prossimo, quando si dovrà rivedere la Juve per il futuro, questa ossatura di squadra può esistere, perché dici bene tu, Krasic, Aquilani, insomma, sono Quagliarella, se riprenderà completamente dall'infortunio, sono giocatori. Lo stesso Bonucci, anche se comincio ad avere qualche dubbio. Insomma, c'è comunque un qualcosa che può permettere alla Juve di ricostruirsi. Ha comunque abbastanza ragione l'ascoltatore che sentivo prima, non perché l'abbia scritto io due giorni fa, ma è un po' quella quello che uno si chiede è, ma fatto salvo che la Juve ha fatto degli investimenti importanti, che secondo me aveva scelto anche un allenatore che l'anno scorso insieme a Mourinho è stato l'allenatore che ha fatto le cose più importanti, Marotta è un vecchio navigante del calcio che comunque sa ancora costruire le cose, quindi c'è stata tutta una situazione positiva che non va dimenticata. Però ci sono state delle cose che io francamente non capisco. Cioè, se veramente l'Inter ha comprato Pazzini, che la Juve inseguiva, a 12 milioni pagabili in 5 anni, più Berberini, ma vogliamo pensare che la Juventus non fosse nelle condizioni di fare la stessa cosa? E questo è il punto. Non vorrei che dietro ci fossero altre cose, ad esempio che a Pazzini non ci si poteva arrivare perché Marotta, con la vecchia, con l'attuale proprietà della Sampdoria, non si è lasciato in buon modo e quindi magari a lui non l'avrebbero dato. Mai dato. Che ne so, mi viene anche da pensare un'altra cosa, non so, penso al Genoa. Il Genoa ha dato all'Inter Milito, Thiago Motta a prezzi direi buoni, adesso ha dato Ranocchia e alla Juve ha dato Toni. Allora forse, ecco, qualche dubbio comincia a venirmi. Quindi, fatto salvo che ha ragione Andrea Agnelli quando dice noi partivamo da una situazione difficilissima e la stiamo raddrizzando, in questo lavoro però bisogna anche dire che qualche difetto, qualche errore è stato commesso. Sì. Come mai la Juventus si è trovata in questa situazione emergenziale con le casse vuote? L'impossibilità di intervenire sul mercato. È impossibilità o ragionamento che ti dice non facciamolo adesso annebbiati da una situazione difficile, facciamolo quest'estate rompendo il Sabadell in quell'occasione e sperando di trovarci dentro la Champions League? Io credo che adesso effettivamente molti soldi non ci siano. Il problema era che bisognava ricapitalizzare adesso e non, come credo, anche se ho visto che Andrea Agnelli lo ha negato che sia prevista, ma secondo me una ricapitalizzazione è indispensabile, anche perché io non credo che questa Juve in questa situazione possa andare in Champions League. Ora, sempre Andrea Agnelli dice sì, ma la Champions League in fondo sono 20 milioni su un budget di 200, è d'accordo, comunque anche quello fa. La Juve del futuro ha dalla sua un grosso, come dicono quelli importanti, asset, che è quello di avere poi uno stadio in proprietà. Che dovrebbe, se gestito bene, ma qui è tutto da verificare, dovrebbe portare capitali ad attrarre magari eventuali investitori e così via. Però la gente comincia a chiedere qualcosa adesso. Sì. Io credo, ad esempio, che una squadra che esce dalla Europa League in quella maniera contro la 11ª squadra del campionato polacco e la 7ª del campionato austriaco, lì c'è un qualcosa che non ha funzionato, non me la vengono a raccontare. Sì. Dalla Coppa Italia la Juventus è uscita presa schiaffi dalla Roma, non è uscita bene. La Juventus, io stesso, perché non bisogna mai poi dimenticare le cose che sono scritte in certe situazioni, cose che molti fanno, io 2 mesi fa dissi che questa era una squadra che poteva aspirare a qualcosa di importante in campionato, perché in quel momento vedevo una Juventus che stava funzionando, aveva forse il miglior centrocampo della Serie A, certo. La difesa non stava più prendendo gol e quindi avevo pensato che, passato quel momento indispensabile di assestamento per una squadra che era stata trasformata completamente, la Juventus, viaggiando su quella strada lì, potesse non far altro che migliorare. Invece all'improvviso è peggiorata, la difesa prende gol come a settembre, l'attacco non segna più, vabbè, manca Quagliarella, però io dico, le rivali, Milan e Inter, ammesso che siano, si possano considerare tali, sono squadre che hanno perso giocatori importanti, non è che non hanno avuto gli infortuni, ne hanno avuti tanti e stanno ovviando comprando della gente importante. Sì. E la Juventus ha preso Toni. E inseguiva Di Vaio. La simpatia e il rispetto che dobbiamo a uno che ha dato tantissimo alla nazionale e che comunque ha fatto diventare tutti noi campioni del mondo. Sono scelte da pura emergenza, non sono scelte strutturali su cui pensare di verificare qualcosa. Quando vedo che la Juventus insegue Matri e probabilmente lo pagherà, se lo prenderà, quanto l'Inter ha pagato per Pazzini, allora devo dire che qualcosa evidentemente non, in questa opera di ricostruzione, che ha sicuramente messo dei mattoni, però va anche detto che in questa opera ci sono stati degli errori e delle cose che francamente sì. non si riescono a capire. Sì, sì, cioè, questo, non credo questo che ci dubbio. Sia un... No, questo è dubbio perché ad esempio uno come Martinez è stato strapagato e mi sembra fino adesso dei nuovi arrivati quello che complici di infortuni non abbia ancora dato nulla. Marco, ti ringrazio. Ok, ciao. Grazie, un abbraccio. Grazie Marco Ansaldo, devo fermarmi un attimo, poi torniamo e parliamo insieme. 800 24 0024, il numero verde, vi aspetto qui. Non mi sposi più. Ma Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia con il servizio rapporto classificato ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un click. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Love, perché vi farà battere il cuore. Life, perché la vita è un viaggio pieno di felicità. Drive, perché non vorrete fermarvi mai. Mitsubishi ASX, The Compact Crossover. Love, Life, Drive. Scopri il Compact Crossover di Mitsubishi. Motori Mivec Euro 5 benzina e diesel, 2 o 4 ruote motrici, da 18.950 euro. Mitsubishi ASX, Love, Life, Drive. I concessionari ti aspettano anche sabato 29 e domenica 30. 1861, l'Italia unita, la Brescia e Roma capitale. Marconi vince il Nobel nel 1909. Nel 15 l'Italia in guerra, uno a Caporetto, il fascismo. Nel 40 di un uomo in guerra, invasa, liberata. Anni 50 volare, anni 60 il boom, anni 70 l'attivo colori, anni 80 campioni del mondo. 2002, ecco l'euro. La storia d'Italia merita più spazio. Per questo ci sono 660 francobolli. Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Poste Italiane presenta Francobolli d'Italia, una preziosa collezione filatelica in 33 fascicoli quindicinali. In tutti gli uffici postali, la prima uscita a soli 6 euro. Poste Italiane. Alcuni dicono Lufthansa, gli altri dicono Boston, Chicago, Miami, New York, Washington, Philadelphia, Seattle, San Francisco, Montreal, Vancouver, Toronto, Atlanta. Nessun limite, un prodotto Lufthansa. Con Lufthansa voli verso oltre 400 destinazioni nel mondo a tariffe speciali. Ad esempio Stati Uniti da 439 euro o Canada da 479, andata e ritorno tutto incluso. Per informazioni e prenotazioni vai ora su lufthansa.com o in agenzia di viaggi. Lufthansa, there's no better way to fly. Renault Zero Emission vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Tempo nel complesso in miglioramento domani sull'Italia. Nuvole compatte associate a residui e fenomeni insisteranno su basso Piemonte, Emilia Romagna e nord delle Marche, con neve inizialmente ancora a bassa quota nel Cuneese. Altrove nuvolosità più irregolare con schiarite parziali su Tirreno più ampi a nord-est. Un nuovo peggioramento raggiunge la Sicilia, con piogge e rovesci anche diffusi dal pomeriggio in estensione in serata anche a Calabria e Alto Ionio. Temperature minime in calo al centro-sud, massime in lieve rialzo, eccetto nelle isole. Venti anche moderati su Liguria, Alto Adriatico e Ionio. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e con questo è tutto. Banco Popolare e le banche del gruppo, in collaborazione con il Sole 24 Ore, propone Crescere Insieme, un tour di 5 incontri sul territorio per conoscere le prospettive per la competitività d'impresa, approfondire i valori dei distretti locali e affrontare la crescita industriale attraverso un nuovo dialogo tra banca e impresa. La partecipazione è libera e gratuita. Prossime tappe Bergamo 1 febbraio e Lucca 3 febbraio. Informazioni e iscrizioni www.ilsole24ore.com/bancopopolare. Che forza, Isquali! Tornerai giù altre mille volte! Se vuoi divertirti di più, puoi reimmergerti senza gabbia. Ma dai, spegni! Scherza! Senza sicurezza c'è poco da divertirsi. Scopri il nuovo design e contenuti esclusivi di Subaru Forester Model Year 2011. Tu anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 470 euro. TAN 2, 9 TAG 383. Fino al 31 gennaio, salvo approvazione istituto erogante. Info negli showroom aderenti. Un tonfo sordo. Una persona scomparsa. Ma dove mi trovo? Intorno a lui solo buio. Aiuto! E un calzino bianco. Una camicia a quadri, un maglione N50, una t-shirt, un foulard di seta. Fate spazio all'ordine con il guardaroba Pax. Dal 1 febbraio al 6 marzo 2011, i soci IKEA Family che acquistano strutture o ante Pax hanno un buono pari al 15% dell'importo speso per Pax. IKEA.it/regolamenti. Auto Supermarket è in edicola. più di 4.000 occasioni di auto e moto ti aspettano ogni mese. Auto Supermarket. Corri in edicola. E la cintura? Non ce l'ho. Ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene? Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tempo di sport. Quel mostro di Edison Cavani ai microfoni di Sky. Che le altre cose arrivano. Io credo che sono cose più importanti, diciamo, per un giocatore che magari vincere la classifica, perché noi stiamo lottando per altre cose che per noi, che siamo, diciamo, arrivando da sotto possiamo magari raggiungere degli obiettivi importanti. Ecco, appunto, si può pronunciare questa parola che forse per scaramanzia non volete mai pronunciare, la parola scudetto? No, non per scaramanzia, sino che perché sappiamo bene quello che vogliamo noi, quindi diciamo che Noi ci mettiamo limiti, cerchiamo di lavorare ogni giorno, migliorare, prepararci ogni allenamento per la partita successiva che è quella più importante, e io credo che con quello spirito si può diciamo, arrivare a lottare per qualcosa di importante per questa città e per questa squadra. Bravissimo Cavani, bravissimo, bravissimo. Parole molto chiare e anche condivisibili. Il Napoli deve chiudere gli occhi e correre forte, poi alla fine aprirli e vedere dov'è, perché questa è la corsa che deve fare il Napoli, che, ripeto, da un punto di vista fisico in questo momento è la squadra che sta meglio in tutta la stagione, in tutto il nostro campionato, insieme all'Udinese che vedremo questa sera a Torino, ma chiaramente la qualità complessiva è diversa. Napoli può puntare allo scudetto? Bella domanda. In una stagione bizzarra come questa, alla fine, secondo me, sì. Chiaramente, se questi tre, Cavani, Lavezzi soprattutto, ma anche Hamsik, che sono le tre stelle di questa squadra, continueranno a brillare in questa maniera. 17 gol per Cavani con un rigore, cioè quello segnato oggi nella tripletta rifilata a una Sampdoria che invece è davvero sull'orlo della depressione, comprensibilmente. Nicola da Treviso, buonasera. Buonasera. Sono Nicola e faccio il tifo per il Napoli, giustamente. E niente, volevo farti una domanda un po' strana, un po' particolare. Io sì, faccio il tifo da parecchio tempo la squadra del Napoli, però questa squadra qua manca qualcosa. Sì, abbiamo parlato bene Hamsik, Cavani, bene Lavezzi, ma il problema è che se uno si ammala davanti, a chi mettiamo come attaccante? No, certo, ma Nicola, Napoli non è nato per vincere lo scudetto, eh? Sì, questo l'avevo capito. Però questo... mancava qualcosa, ecco. Cioè, c'era un mercato di riparazione a gennaio, sì. E ci è parlato solo del difensore Ruiz della Spagnola, che è stato preso, e poi nient'altro. Beh, che è stato Ruiz che è stato preso, e insomma, ripeto, il Napoli non ha, a differenza delle altre che sono dietro di lei, non aveva l'ambizione di vincere quest'anno lo scudetto. Si trova lì, si è trovata lì, non credo che abbia giustamente anche le possibilità economiche per cambiare i piani in corsa, quindi per correre al mercato di gennaio a comprarsi chissà chi. Insomma, il Napoli giustamente va avanti per la sua strada. No, però volevo farti solo una domanda: era possibile prendere Cassano? Era possibile prendere Cassano a parametro zero? Non so se in questo Napoli sarebbe stato funzionale. Non sto parlando del valore assoluto del giocatore, ma non so se in questo Napoli, per come è costruito, per la magia che si è creata in questa squadra, per la chimica che si è creata in questa squadra, non so se Cassano avrebbe fatto, sarebbe stato un bene o un male per una squadra come questo Napoli. Poi per il futuro vediamo. È chiaro che se mi dici è attrezzato per vincere lo scudetto, oggi no, domani non lo so, perché non so quali piani abbia anche dal punto di vista dei conti De Laurentiis. Certamente, questo giocatore, se è veramente questo, perché adesso sono curioso di vedere la riprova della prossima stagione, eccetera. Però se Cavani è questo, è uno dei più forti giocatori del mondo e non ci sono discussioni, no, sull'argomento, mi pare. Mi sono rimasto un po' dispiaciuto per quanto riguarda il mercato di gennaio, che sì, mi aspettavo qualcosa di più, cioè invece di prendere un difensore, proviamo a prendere magari un attaccante di riserva. Da partire dalla panchina, invece cosa noi abbiamo Lucatelli. Cosa dovrebbe dire appunto la Juventus di cui stavamo parlando prima? Insomma, è chiaro che, ripeto, serviva un difensore mancino, difensore arrivato, si chiama Ruiz, e credo che il Napoli, insomma, abbia fatto bene ad agire così. Questa squadra non ha lo scudetto in testa per questa stagione, salvo miracoli, e per i miracoli ci stiamo attrezzando, come direbbero da quelle parti. Maurizio, provincia di Latina, buonasera. Buonasera dottor Genta. Niente, io volevo innanzitutto sottolineare un particolare, che molti che criticano, almeno anche la giornalista che è intervenuta prima, parlava di un Milan non bello, e vorrei vedere con ben 7 centrocampisti fuori, è inutile fare i nomi: Pirlo, Seedorf, Boateng, sì, sì, Flamini, Gattuso e chi è più ne ha ne metta. Quindi centrocampo completamente privo di uomini. Fortunatamente sono arrivati gli altri, e soprattutto, e questa è la domanda che le volevo porre, e soprattutto ho visto un Thiago Silva che per me è sprecato al centro della difesa, perché può essere davvero un ottimo centrocampista, un ottimo centrale, perché ha visione di gioco, solidità ed a è piedi, molto forte. A piedi, certamente. Una domanda, sì, se me la consente, se per lei effettivamente Ibrahimovic sta giocando la migliore stagione, perché al di là del mostro Cavani, io penso che un altro grande mostro sia Ibrahimovic. Vabbè, su questo questo lo sapevamo anche prima, mi viene da dire. Di Ibrahimovic dirò tra un attimo, prima Pazzini con Sky. Di far bene, quindi sono entrato con la voglia di aiutare la squadra a vincere questa partita, perché sicuramente anche sul due pari non si è accontentata, ha spinto ancora, quindi oggi c'è da fare i complimenti sicuramente a tutti i compagni. Ci dici cosa ti ha detto Moratti nello spogliatoio? No, ma mi hanno fatto tutti i complimenti, per me è stato un grande piacere, insomma, tutti i compagni che mi hanno accolto bene, mi hanno fatto tutti i complimenti, sono stato contento di poter dare una mano a loro oggi. Visto così, Pazzini, quando a Thiago Silva io non credo che possa essere una soluzione stabile a centrocampo. Mi viene in mente quel vecchio esperimento, chi ha qualche anno se lo ricorda, di Franco Baresi, che pur di farlo giocare in nazionale con Scirea titolare del ruolo si era pensato e si era provato, Berzotto aveva provato a farlo giocare a centrocampo, non aveva certamente i piedi, non aveva il passo per fare centrocampista, e si potrebbe dire la stessa cosa anche di Thiago Silva, cioè secondo me è uno straordinario difensore centrale con grandi piedi, quindi ideale per far ripartire l'azione, non mi pare che abbia il passo da centrocampista, e poi mi sembra anche che lui abbia detto di sentirsi difensore, di voler giocare lì, insomma, con tutte le ragioni del mondo, al di là delle ovvie necessità dettate dall'emergenza, com'è quella del Milan in questo momento. Quanto a Ibrahimovic, che fosse un mostro lo sapevamo, mi sembra però che stia giocando la sua miglior stagione dal punto di vista emotivo, perché lo vedo coinvolto in questo Milan come non mai. Ieri, dopo aver segnato il gol che ha chiuso questa partita durissima anche dal punto di vista fisico, anche per lui, a Catania, si è sbattuto come un dannato, ha segnato quel gol alla fine ed era veramente felice come un bambino, quindi si sente padrone di questa squadra, probabilmente anche di questo spogliatoio, e sta giocando a dei livelli di emotività che probabilmente non aveva mai toccato. Ci fermiamo per il traffico e poi Napoli, poi andiamo a Napoli. Nuova Passat, sempre un'idea avanti. Scopritela dai concessionari o su Volkswagen.it. Vi presenta Strade in diretta. Traffico intenso e rallentato lungo la 22 del Brennero tra Rovereto Nord e Alavio in direzione Modena. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda per il traffico intenso tra Pero e Cormano verso Milano e proseguendo verso Brescia, circolazione rallentata tra Cavenago e Capriate per materiali dispersi sulla carreggiata. Rallentamenti per il traffico intenso anche sulla A5 tra Chatiglione e Quincinetto verso Torino e a Napoli sulla tangenziale tra Vomero e Camaldoli in direzione Capodichino. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, sono in atto ancora deboli nevicate al nord in Emilia e tra Piemonte e Liguria, non si segnalano comunque particolari disagi per chi è alla guida, nevischio anche sui tratti appenninici abruzzesi. Piogge sparse invece sono ancora in corso al centro-sud. È tutto, noi torniamo tra circa mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo andando a Napoli per l'appunto. Enzo Danna, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera ai radioascoltatori. Davide mi scrive: dovrebbero fare un monumento a De Laurentiis via SMS 349-238-6666. Beh, guarda, anche per rispondere all'ascoltatore di poco fa che si lamentava un po' per questo mercato un po' in sordina, no? Di gennaio del Napoli. Come sai, come tu hai confermato, è arrivato Ruiz, che tra l'altro domani sarà presentato ufficialmente, e dobbiamo dire che ci sono ancora 24 ore di mercato e il Napoli si sta muovendo per prendere un attaccante. Mascara o Foggia, forse è più probabile il secondo, perché c'è la possibilità di uno scambio con la Lazio dando Blasi ai bianco-azzurri. Ovviamente nessuno dei due rappresenterebbe il grande colpo che vorrebbero i tifosi, però o l'uno o l'altro può certo rappresentare un'alternativa agli attaccanti che ha adesso il Napoli. Oggi a un certo punto della partita è entrato anche Lucarelli, perché la partita si era messa in un certo modo, 4-0, e certamente anche lui può essere un'alternativa, però è chiaro che il grande punto di forza del Napoli di quest'anno è che è riuscito a mantenere più o meno inalterato l'11 dei cosiddetti titolarissimi per quasi tutta la stagione. Sì. E è chiaro che può capitare nel corso di una stagione un infortunio, una squalifica, la prossima partita per esempio non ci sarà Lavezzi, che oggi è stato ammonito e è stato diffidato, e allora è giusto allungare un po' la panchina a disposizione di Mazzarri. Sì, ma in città ci si crede davvero? Guarda, con il dovuto rispetto per squadre che tecnicamente sono più attrezzate e pronte, ovviamente l'Inter, il Milan, la Roma, la stessa Juventus tecnicamente sono superiori al Napoli, è un Napoli però per il quale parlano i numeri, insomma se continua così può giocarsela fino alla fine, considerando che quest'anno non c'è una squadra a massa campionato, perché non crederci? È chiaro che qui a Napoli basta poco per accendere l'entusiasmo, però devo dire che è un entusiasmo, un'euforia sempre molto contenuta, no, poi, e quindi questo potrebbe essere un vantaggio. Poi sei al momento ampiamente giustificata, perché insomma non è un castello di carta, no? Insomma è una squadra che dà anche garanzie, caro Enzo. Guarda, poi non so se fisicamente sia possibile reggere fino a maggio su questi ritmi, però ha giocato una partita di intensità pazzesca con l'Inter, meritando di vincerla due giorni fa. Oggi è davanti alla Sampdoria, che è un po' allo sbando in tutta onestà, e ha subito tanto i colpi del mercato, basta guardare in faccia Palombo che sto vedendo ora, al di là dei 4 gol subiti. C'era davanti alla Sampdoria però Napoli l'ha tretata, quindi con grande energia. Guarda, è una squadra che gioca bene, del resto penso che ci sono le partite che lo testimoniano, anche la gara contro l'Inter con un'intensità che giustamente tu hai sottolineato. Diverte, il club solido, ci sono quei tre davanti che fanno davvero la differenza. Oggi Cavani è stato strepitoso, ma al di là di Cavani, che pare trasformi in gol tutto quello che tocca, o comunque una percentuale altissima dei palloni che tocca, bisogna sottolineare anche la prestazione di Lavezzi, che oggi non ha segnato ma è stato decisivo in almeno 3 sicuro, occasioni sicuro. E io penso che questa sia la forza del Napoli, ma soprattutto il gruppo, Carlo. Io ho sentito l'ascoltatore di prima che parlava anche di Cassano, no, eccetera. Pensa che Mazzarri ha allenato, come sai, Cassano, ha avuto con lui un ottimo rapporto, si è stabilito anche un certo feeling, no, con il giocatore quando era alla Sampdoria. Se non ha insistito con De Laurentiis per provare ad averlo, e a un certo punto c'era tutto un ambiente che remava in quella direzione, io dico che ci sarà un motivo. Ma certo che c'è un motivo, perché Cassano è evidente che insomma era un giocatore dal punto di vista economico raggiungibile da chiunque, dunque ci sarà un motivo, come dicevo prima, perché non è stato preso. Grazie Enzo Danna. Grazie a voi. Grazie. C'è chi scrive: Ma visti gli arbitraggi, secondo lei vogliono veramente far vincere lo scudetto alla Roma? Domanda Gigi da Sassari. Max da Verona, San Siro, ennesimo arbitraggio pilotato, altro che grande rimonta, se Reali dico non seguirò più il calcio italiano. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Io non ho guardato le partite insieme a voi, non ho visto una quantità di replay sufficiente per crearmi delle idee sensate. Avrei da discutere effettivamente sul rigore che è stato fischiato a favore dell'Inter, poi trasformato da Eto'o. Poteva esserci un rigore, altro rigore per il Palermo, mano di Motta in area, eccetera. Questi episodi che sbriciano la partita in tanti piccoli segmenti, secondo me ci confondono un po' le idee, perché siamo sempre lì. Più grave l'errore di chi era l'arbitro di oggi, di Rizzoli, più grave gli errori di Rizzoli, o più grave l'errore di Pastore, che ha tirato malissimo quel calcio di rigore che poteva chiudere la partita. Palo di Pastore, episodi, eccetera, eccetera, eccetera. Se evitiamo di sbriciolare la partita in tanti microsegmenti, vediamo come il Palermo non abbia saputo alla fine gestire il vantaggio e l'Inter si sia dimostrata viva a sufficienza per cercare di inseguire fino all'ultimo questa rimonta. Questi sono i fatti. Se poi vogliamo metterci a discutere davanti alla moviola, facciamolo, magari anche da un'altra parte, non mi offendo, ve lo assicuro. Marco da Bergamo, buonasera. Eccomi, buonasera. spero che mi sentiate bene perché sono in macchina. Ci proviamo, dica, per il momento sì. Molto bene. Niente, volevo ragionare, sono un tifoso juventino abbastanza preoccupato in questo momento. Volevo spostare un po' l'attenzione però con lei che è molto competente sul lato diciamo un po' più tecnico, perché ho ascoltato attentamente il giornalista della Stampa e condivido tutto, cioè a latere di questo mercato un po' sicuramente strano, di queste spese un po' strane. Io continuo soprattutto alla fine, in queste ultime giornate, a vedere una squadra che comunque è in difficoltà tecnica, cioè una squadra con poche idee, una squadra che fatica a arrivare in porta, sì. Una squadra timorosa. Io direi che la partita col Napoli è stata diciamo lo specchio più evidente di questo, cioè una squadra che quando c'è qualità dall'altra parte fa comunque sempre troppa fatica, poche sovrapposizioni, dove tutti fanno il compitino e quindi forse anche, non so, l'arrivo di questi che potrebbero essere dei salvatori dell'ultima ora, non c'è molto. Vorrei vedere una squadra con più con più coraggio e più gioco. Ma cioè, sì. Mi sembra che manchi, ecco. Ma in questo momento alla Juventus mancano un sacco di cose, secondo me anche una condizione fisica accettabile, perché tante volte ho fatto l'esempio di Krasic che nel girone d'andata, che nella prima parte del campionato mi sembrava davvero la nuova grande cosa del campionato italiano, poi si è spento e in questo momento è un giocatore che non riesce a saltare l'uomo e dunque la cosa grave è che se non salta più l'uomo Krasic non lo fa più nessuno. Bravo. Non lo fa più Krasic, non c'è più Quagliarella in grado di inventare qualcosa davanti. Onestamente adesso chi gioca in attacco alla Juve non la prende mai, soprattutto la porta non la vede neanche col binocolo, dunque le difficoltà mi sembrano tantissime. Io saluto e ringrazio invece un bravo allenatore come Gianni De Biasi, nostro amico. Ciao Gianni, grazie. Ciao, buona serata a tutti i radioascoltatori. Un po' difficile dire da lontano cosa abbia la Juventus. Tu cosa dici? Sicuramente che gli mancano molti giocatori in un momento particolare della stagione, questo sicuramente salta all'occhio di tutti. E poi parlavate di Krasic è un giocatore che nella prima parte ha fatto molto bene, ma dobbiamo anche ricordare che Krasic non riposa perlomeno da un paio d'anni, è un giocatore che è costantemente impiegato e come tutte le cose naturalmente, o tutte le persone normali e non come posso dire, eccezionali, possono avere dei momenti di flessione, mi sembra che sia così umano. Brutalmente Pazzini avrebbe cambiato questa Juventus? Se vediamo la partita di oggi sicuramente un contributo lo poteva dare, però è chiaro che la Juve è legata anche a situazioni finanziarie importanti, hanno fatto una rivoluzione abbastanza ampia nel mercato estivo e ci vuole il suo tempo. Io penso che sia una piazza molto difficile dal punto di vista dell'importanza della piazza e Del Neri sta facendo del suo meglio per gestire una situazione che non è certamente facile. Certo. Gianni, invece questa fragilità difensiva dell'Inter, secondo te è estemporanea, strutturale? Come mai prende così tanti gol? È chiaro che è una squadra viva, perché anche la partita di oggi non ha mai dato l'impressione di arrendersi nemmeno sotto, nemmeno quando la partita si era terribilmente complicata, però dietro becca due gol a partita. È vero, io ho visto la partita di domenica, quella di oggi no, perché ero impegnato a vederne un'altra, però devo essere sincero, domenica aveva delle difficoltà a livello fisico di arrivare sempre seconda sulla palla e l'Udinese che gli ha dato tre gol ha fatto una partita eccezionale da tutti i punti di vista e tu mi insegni che quando arrivi secondo sulla palla difficilmente riesci ad avere poi il predominio del gioco. Io ritengo che l'Inter abbia pagato un piccolo scotto, anche se Leonardo quando è arrivato ha fatto molto bene, ha vinto mi sembra 5 partite di fila, ha perso soltanto con l'Udinese e questo mi sembra un biglietto da visita per una squadra che ha recuperato in parte, gran parte della, scusa bisticcio di parole, il maggior numero di giocatori rispetto all'era Benitez, e questo secondo me è un aspetto da tenere in grande considerazione. Sicuro. Grazie Gianni, buon lavoro. Un piacere. A presto. Un saluto. Piacere ciao, nostro. Presto. Gianni De Biasi, ci fermiamo invece noi per il giornale radio, subito dopo torniamo per parlare con i tanti ascoltatori che ci provano e ci stanno prenotando. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. A tempo di sport. Come avete sentito anche molto puntualmente nel giornale radio, è ufficiale l'esonero di Beretta, che non è più l'allenatore del Brescia, è stato richiamato con l'elastico Beppe Iachini. 7 partite soltanto per Beretta, 2 vittorie e 5 sconfitte, dunque torna l'allenatore di prima. Messaggi che scrivono: la forza del Milan di ieri è stata la tranquillità con cui ha gestito a livello mentale l'ingiustizia subita. Spoli su Rubinho era da espellere, Luca Darò, eccetera, eccetera. E poi altri messaggi di questo tenore, sempre su questi episodi arbitrali. Secondo me, la forza del Milan di ieri è stata la voglia con cui ha inseguito una vittoria di ruvidissima bellezza, di enorme importanza, in 10 contro 11 con un Catania che a pallone ha rinunciato a giocare praticamente da subito. Ebbene, è una di quelle vittorie che sanno di scudetto, che sono segnali, che possono essere indizi di scudetto, con un Ibrahimovic, ripeto quanto ho detto prima, che così emotivamente coinvolto nelle vicende di una squadra non avevo mai visto. L'avevo visto tante volte giocare su livelli straordinari con la Juventus, con l'Inter, col Barcellona magari meno, però così coinvolto, così padrone della squadra non l'avevo visto mai, sinceramente. Ciro da Siracusa, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Io volevo parlare in particolare di Cavani. Sì. L'ho seguito parecchio quando era a Palermo, perché ho avuto la possibilità di vederlo parecchie volte allo stadio. Ecco, e allora lei che l'ha seguito con attenzione e con frequenza, un Cavani a questo livello, soprattutto dal punto di vista realizzativo, se l'aspettava? Ma allora, diciamo che me l'aspettavo sì, per il semplice motivo che a Napoli sta facendo il suo vero ruolo, sta giocando il suo vero ruolo, che è prima punta. Sì. Palermo invece, da come l'ho visto io, quelle volte che l'ho visto, era messo invece a correre avanti e indietro per la fascia e arrivava abbastanza poco lucido in zona gol, ma si vedeva comunque che il suo ruolo è quello. Il suo ruolo è quello di prima punta e insomma finalizzatore di tutte le occasioni della squadra. Io me l'aspettavo sinceramente, non a questi numeri, perché sono numeri eccezionali. 17 in 22 partite con un rigore, cioè quello trasformato oggi. Sì, esatto, io sto chiamando, sono un tifoso juventino, Juventus non c'entra niente in questa giornata perché ancora deve giocare, spero che si ripete il risultato dell'andata. Cavani potrebbe cambiare la vita della Juventus, un giocatore come Cavani. Per esempio, io dico, adesso si fa un gran chiacchierare su Pazzini, no? Lo sapete, lo slogan dei tifosi juventini è che ma come, l'abbiamo inseguito per 6 mesi, adesso arriva l'Inter, in 2 giorni mette i soldi, lo prende, e allora basta chiacchiere, facciamo i fatti, prendiamo i giocatori, però uno come Pazzini in questa Juventus, secondo lei cambierebbe il destino della Juventus immediatamente? Secondo me no. Allora, secondo me qualche punto in più l'avremmo, perché sinceramente giocare con Amauri e Iaquinta, che sono inesistenti, non la vedo mai, è un grosso handicap. Quindi io non dico che magari con Cavani o con Pazzini o chi per loro la Juventus sarebbe una squadra da titolo immediato, ma sicuramente avrebbe, dai conti che ho fatto io, in questo momento avremmo tra i 6 e gli 8 punti in più. Quindi per me un attaccante buono, certo, serve, non c'è dubbio, serve un attaccante in grado di farti fare il salto di qualità, un attaccante in grado di fare la differenza, come è oggi Cavani, come non credo, ma per caratteristiche anche tecniche, come non credo sia Pazzini, perché Pazzini in una squadra che comunque funziona come l'Inter, una squadra forte, una squadra in cui ti arrivano e cross di Maicon da una parte, le imbeccate di triangoli dietro dall'altra, insomma le occasioni per buttarla dentro, cosa che Pazzini sa fare in maniera straordinaria, ci sono. In una squadra come la Juventus, messo Pazzini, la Juventus di oggi, giocasse lui in attacco al posto, prima ho visto la formazione della Juventus annunciata, Del Piero, Martinez, coppia d'attacco improbabile, però questo è quanto passa il convento. È chiaro che sarebbe meglio di quelli attuali, però non credo sia in questo momento il giocatore in grado di cambiare la faccia a una squadra che non funziona, quindi questo è il mio pensiero. Grazie Ciro. Marco, provincia di Roma, buonasera. Ciao Carlo, buonasera ciao a tutti. Allora, io sono uno juventino che chiama la Roma, tra l'altro, quindi già soffre di per sé. La prima considerazione è questa, innanzitutto, ed è doverosa perché siamo quasi colleghi da parte mia, e perché viva Dio che esista un punto come voi dove si analizza tutto con garbo, serietà. Grazie. E raziocinio. Grazie. E portate poi i tifosi come quello del Napoli prima a ragionare, cioè che ci si lamenti a Napoli è paradossale. È un po' strano, mi auguro che questa stessa calma rimanga quando le cose andranno male, perché come avete giustamente detto, questa è una squadra nata per... Quindi ecco, riportiamo tutti un po' di sano giudizio. Poi da juventino io invece, peccato che Ansaldo sia andato via, perché mi chiedo, su a Torino vorrei tanto sapere cosa c'è. Allora, se c'era una manifestazione che la Juventus forse poteva sognare, incrociando di tutto di più, di vincere, era la Coppa Italia. Sì. Qualcuno mi deve spiegare per quale motivo ci si presenta la partita più importante, tra virgolette, di tutto ciò che possiamo vincere della stagione, con Buffon in tribuna, Motta in campo e Martinez. Ora, io presumo che Del Neri abbia fallito quest'anno anche la sua, presumo, ultima occasione di un salto di livello. Però qualcuno mi spieghi il perché. Cioè, perché si arriva in una... Ovvio, Storari non è l'ultimo arrivato, ma tu in quella gara dovevi tentare il tutto per tutto per superare la Roma, giocare in casa, per sognare poi una semifinale con l'Inter, che magari, sì, chissà, forse, non lo so... A maggio, hai visto mai che cambiano le cose? Hai visto mai? Sì, ecco. Sì, ora, sì, io, qualcuno mi deve dire questo, perché ci si siede, Marco, ad un tavolo... Ma secondo te sarebbe cambiato qualcosa, onestamente? Perché la Juventus tutta quanta è stata presa a pallonate dalla Roma l'altra sera, eh? Sì, perché questo, se posso dirti, allora io sono convinto che siccome l'acqua va al marcio, lo insegna la natura quando è in discesa, tu devi trovartici in discesa. Questa Juve non è in discesa ora, è ovvio che se Pazzi arrivava, sono d'accordo con te, Capace che si infortunava al secondo giorno, arrivederci e grazie. Però, perché per me a questa squadra mancano, passami il parallelo, Cannavaro, Emerson e Trezeguet. Quindi ecco quello che manca, l'ossatura. Buffon ancora c'è, ringraziando Dio, quindi manca quelli di 5-6 anni fa, naturalmente. No, io dico proprio giocatori di questo genere, sì, cioè sì, manca, sì, un Cannavaro, sì, accanto a Chiellini, manca un Emerson al posto di, e manca un Trezeguet, poi paradossale che venga mandato via un Trezeguet per prendere Toni. Comunque, sì, chiudo dicendo, perché in una situazione del genere, perché poi il calcio è un gioco di squadra, quindi quando tu a livello mentale cedi, perché vedi un allenatore che non sa, e mi pare di aver letto anche un Del Neri disorientato quella sera, che non sapeva che cambi fare, si alza Aquilani, si risiede, si riaccende. Cioè, dico, dai juventini le è dura vivere questo momento, perché insomma veniamo da capisco. Anni di... Questo lo capisco, la gestione di Del Neri, della partita dell'altra sera di Del Neri, mi è sembrata confusionaria quantomeno, no? C'è stata questa conferenza stampa di ieri molto accorata, non mi sento di avere responsabilità, eccetera. Io credo che nulla sarebbe cambiato con Buffon in campo al posto di Storari, e sappiamo quanto questa vicenda dell'alternanza di portiere è stata intricata, no? Krasic non stava bene partito dalla panchina. È chiaro che un giocatore come Aquilani, se appena sta in piedi in una partita in cui ti giochi, se ti giochi la vita, se ti giochi l'unico obiettivo stagionale, deve stare in campo e non seduto ad alzarsi di tanto in tanto. La gestione di quella partita è stata confusa. Io però penso che questa Juventus, comunque, al completo, e con Aquilani, con Buffon, con tutti gli altri che era possibile schierare, e non sono moltissimi, non avrebbe fatto una figura tanto migliore con la Roma. È chiaro che la riprova non... Forse l'avremo stasera con l'Udinese, no? Dove gioca l'unica formazione possibile. Sappiamo che non ci sono attaccanti, quindi questa strana coppia davanti del Piero Martinez. Naturalmente gioca Aquilani, torna Felipe Melo, vediamo cosa succede, ma non sarei molto fiducioso fossi un tifoso della Juventus. Traffico. Siete alla guida di una Porsche 911. Lei risponde ai vostri comandi, ridisegna la strada con una sportività sensazionale, un'emozione che vorreste non finisse mai. Fatela continuare. Realizzate un sogno. Con il Comfort Leasing la 911 può essere subito vostra. Riconoscerete il suo valore oggi, ma anche nel tempo. Porsche vi garantisce infatti il 78% del suo prezzo anche dopo 18 mesi. Prenotate il vostro test drive e scoprite il Comfort Leasing su www.porsche.it/test drive. Nuova Passat. Sempre un'idea avanti. Scopritela dai concessionari o su Volkswagen.it. Vi presenta... Strade in diretta. Trafficata la 22 del Brennero con rallentamenti tra Rovereto e Alavio in direzione Modena. Traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano fra Greggio e Biandrate verso Milano, e rallentamenti con code sul tratto milanese dell'A4 verso Brescia. Circolazione rallentata anche sul grande raccordo anulare di Roma tra Appia Casilina in carreggiata esterna e in interna tra Prenestina e Ardeatina. Trafficata poi la tangenziale di Napoli verso Capo di Chino. Per quanto riguarda le condizioni meteo, deboli nevicate al nord in Emilia tra Piemonte e Liguria, ma non si segnalano al momento problemi di circolazione. Piogge sparse invece su gran parte del centro-sud e nevischio sull'Appennino abruzzese. È tutto, a più tardi. A A tempo di sport. Ecco che torniamo, tra poco riprendiamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Io continuo a leggere messaggi del tipo: Enzo da Crema, la Roma senza gli arbitri avrebbe gli stessi punti di Fiorentina o Bologna. Oppure Gianluca, Napoli e soprattutto Roma sono tenuti in piedi dagli arbitri. Beh, Napoli mi pare sia tenuto abbastanza in piedi da se stesso o casomai da quei tre davanti e da una condizione, ripeto, straordinaria. Più che dagli arbitri. Angelo da Lecco, non è la prima volta che Rizzoli favorisce l'Inter, eccetera, eccetera, eccetera. Forse invece è la prima volta che Pastore favorisce l'Inter calciando il rigore della partita, perché si era su 2-1, lo ricordo, in maniera rivedibile, ma tanto questo importa molto meno rispetto ai fischi. Vorrei fare una digressione. Leonardo Ghiraldini, vice capitano della nazionale italiana di rugby, che sta per iniziare Sei Nazioni. Ciao Leonardo, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Giacomo Bagnasco, nostra voce del rugby. Ciao Giacomo. Buonasera a tutti, a Leonardo e agli ascoltatori. Leonardo, io faccio questa digressione molto volentieri. A, perché Sei Nazioni l'ho sempre seguito, lo seguiremo anche alla radio con grande attenzione, eccetera, eccetera. B, perché questa digressione sta in mezzo a un gran parlare di arbitri, come ben sai. Sì, ma nel rugby se ne parla molto meno, per fortuna. Sì, qualche volta però se ne parla, perché a volte si è detto: beh, però quest'Italia non ha grande peso ai piani alti. È vero questo? Scusa, non ho sentito. No, dicevo che di arbitri qualche volta si è parlato anche nel rugby in occasione delle vostre partite. Si è detto: l'Italia non ha tanti santi in paradiso quando andiamo a scontrarci con i più forti. È vero questo o sono favole? No, ma è sempre difficile. Ci sono tante partite durante l'anno che sono molto complicate per noi, affrontiamo molte squadre che sono tra le prime al mondo e quindi non è mai facile. Poi appunto l'arbitro nel rugby è sicuramente importante, però certo non può influenzare più di tanto una partita. Credo che poi il risultato sia il 99% delle volte giusto e quindi che appunto siano le squadre le vere protagoniste in campo. Ti voglio chiedere questo, poi ti lascio Giacomo Bagnasco. Vi sentite un po' di pressione addosso? Insomma, settimana Petrucci ha detto: e adesso però bisogna vincere. Dondi ha detto chiaramente: basta con le onorevoli sconfitte. Mi sembra che l'Italia, che siate in un momento un po' particolare, no? Alla vigilia di questo Sei Nazioni. Sì, credo che la squadra sia arrivata a una maturità, un'esperienza tale da portare in campo, e sicuramente arriviamo da un periodo molto buono, perché comunque i risultati negli ultimi anni si sono visti, c'è una crescita importante e quindi credo che è vero che queste dichiarazioni magari possono sembrare un po' troppo forti, però abbiamo voglia, senz'altro, anche noi giocatori, tutti i tifosi, di raggiungere vittorie e stiamo lavorando sicuramente per raggiungerle. La squadra è buona, lo staff è unito e quindi sicuramente stiamo preparando al meglio per affrontare questa situazione. Giacomo. Intanto vorrei fare un piccolissimo bollettino riguardo al fatto che la rosa che affronterà le prime due partite è stata portata da 24 a 26 giocatori proprio oggi, con l'inserimento di Bernabò Saul e Matteo Pratichetti, mentre torna al club Derbyshire infortunato. E tra gli infortunati restano in ritiro, però si allenano a parte, e la loro condizione da valutare è Garcia, Barbieri e anche il capitano Sergio Parisse, che ha un problema a un dito. Ecco, a Leonardo avrei voluto domandare due cose. Intanto, l'anno scorso lui è stato il capitano proprio per l'assenza di Parisse e naturalmente in questo caso facciamo gli scongiuri e cerchiamo di pensare che invece Parisse ci sia. In secondo luogo, Leonardo, hai parlato di una Italia in crescita e complessivamente si può pensare che il rugby italiano sta crescendo dal punto dell'interesse, dal punto di vista dell'interesse dei praticanti, eccetera. Questa nazionale però la crescita noi ci aspettiamo magari di poterla vedere concretizzata in maniera convincente sabato prossimo contro un'Irlanda che viene a Roma, lo ricordiamo, con parecchi giocatori infortunati. Sì, sicuramente anche noi come Irlanda abbiamo un periodo non buonissimo a livello di infortuni, ce ne sono stati parecchi soprattutto ultimamente, però appunto credo che la forza in questo momento della nazionale sia quella di poter attingere a un bacino abbastanza importante di giocatori che comunque hanno esperienza a questi livelli e quindi non sono buttati nella mischia in partite magari così, così difficili, ma tutti hanno esperienza, hanno maturità e soprattutto hanno una grande qualità. Credo che sarà sicuramente importante questa Sei Nazioni per tutta l'annata. Il rugby italiano e la nazionale negli ultimi anni sono cresciuti enormemente. Da settembre due squadre italiane fanno parte di un torneo molto importante che è quello della Celtic League e questo sicuramente contribuisce al periodo di crescita e al processo di crescita iniziato alcuni anni fa e quindi senza dubbio iniziamo questa partita pensando a Sei Nazioni ma sappiamo anche che questo 2015 è importante perché c'è anche il mondiale, certo. E quindi tra l'altro l'Irlanda la affronteremo anche al mondiale, sarà nel nostro girone, per quello sarà una partita ancora più particolare, dobbiamo senza dubbio puntare a vincere, stiamo pensando a quello, però appunto la vittoria deriva poi da un lavoro, è una conseguenza del lavoro che fa in campo, quindi non dobbiamo essere ossessionati dal punteggio, dal tabellone, ma dobbiamo pensare a lavorare per raggiungerlo. Leonardo, c'è completa fiducia comunque in Mallet da parte del vostro gruppo? Sì. Siamo credo che appunto la squadra sia molto unita tra giocatori, tra staff, c'è grande comprensione e quindi stiamo lavorando veramente bene. Tutte le voci che ci sono state ultimamente non ci hanno colpito perché credo appunto che quest'anno sia veramente troppo importante per tutto il rugby italiano e quindi anche per noi giocatori, quindi non possiamo assolutamente farci prendere da alcune distrazioni che magari sono venute fuori sui giornali, ma credo che anche in generale tutti si siano accorti che questa nazionale c'è, ha voglia di far bene e poi tutte le altre ragioni credo che anche la federazione si sia espressa in tale senso, sì. Quindi non possono entrare in questa, non possiamo neanche noi giocatori entrare in queste situazioni. Giacomo, un'ultima domanda a Ghiraldini. Ma guarda, un'ultima domanda a Ghiraldini, una domanda che rientra nel suo ambito familiare, perché Leonardo è giocatore di prima squadra, giocatore di primo livello nella nazionale maggiore, ma c'è Edoardo Ghiraldini, flanker del Petrarca Padova, che è anche un azzurro Under 20 che giocherà appunto il Sei Nazioni di categoria. Quindi Leonardo, in famiglia a questo punto le star rischiano di essere due, ma diciamo non sono mai troppe, c'è già tra i padovani l'esempio dei fratelli Bergamasco. Sì, ho trasmesso da quando era piccolo questa voglia di rugby e la voglia di partecipare a questo sport a mio fratello e è iniziato anche lui a da piccolo appunto a giocare a Padova, adesso ancora a Padova e ha la fortuna di poter intraprendere, iniziare un Sei Nazioni e l'ho sentito proprio oggi, è veramente felice e quindi gli faccio in bocca anche a lui perché senza dubbio anche a livello d'Under 20 sono sempre partite bellissime da giocare, sono sempre partite d'altissimo livello e credo che l'Under 20 sia veramente un bacino importante per la nazionale maggiore e negli ultimi anni le convocazioni appunto della nazionale italiana ma anche in tante altre nazionali d'Europa si vedono appunto molti giovani che sono cresciuti nell'Under 20 e che fanno bene anche in nazionale maggiore, quindi spero per lui che si diverta tanto perché sono partite veramente molto emozionanti. Che ti raggiunga presto, insomma. Dopo i Bergamaschi, i Ghiraldini, fratelli azzurri insieme, insomma. Leo, in bocca al lupo, un abbraccio, ci sentiamo a giochi in corso. Grazie a Leonardo Ghiraldini, grazie anche a Giacomo Bagnasco, che naturalmente da sabato troveremo ampiamente perché programma del sabato in epoca di Sei Nazioni ormai è un'abitudine, sapete bene di cosa parleremo per la maggior parte. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Raffaele da Torino, Davide provincia di Lecco, e io continuo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Che schifo il calcio italiano, ha ragione Sacchi, è ora di finirla con questi arbitraggi pilotati. Matteo da Cagliari lo scrive. Raffaele da Torino spero voglia parlare di altro invece. Sì, buonasera. Buonasera. Sono tifoso juventino, volevo solo fare questa considerazione. Mi dà la sensazione che la Juve in questo momento sia senza società. Cioè, dalle scelte che sta facendo non c'è una politica societaria. E per quello che, secondo me, non riesce neanche a lavorare bene sul mercato. Ma perché? Perché dice senza società? A me sembra invece che la società ci sia, no? Anzi, che la società ci sia come forse non c'era negli anni precedenti. Cioè, quello che dico io è che la Juventus nel 2006 è stata privata dell'anima, no? Della vita sportiva, non tanto di quei due scudetti. Perché quello col senno di poi è stato danno minore, però è stata azzerata e costretta a ripartire da zero per costruire una squadra da zero, una squadra di serie B che deve tornare ad essere competitiva. Insomma, del tempo ci vuole, ci vogliono anche un sacco di quadrini. È stato di recente notato come Abramovic aveva preso una squadretta del calcio inglese, no? Come il Chelsea, sì. Per farla diventare competitiva ci aveva messo un po' di tempo e 800 milioni di euro, no? Ripartire, sì, da zero, insomma, è complicato, eh. Secondo me è stato buttato via molto tempo e sono stati buttati via molti soldi. Tant'è vero che con la gestione precedente, insomma, mi pare non ci siano giocatori sui quali costruire un futuro. No? No. La gestione precedente non abbia lasciato giocatori sui quali costruire un futuro. Questa gestione, qualche giocatore sul quale vale la pena insistere, l'ha portato. Mi sembra che Aquilani, Quagliarelli, i nomi che si facevano prima, siano gente su cui vale la pena investire un po' di tempo, un po' di soldi, no? Sì, però ad esempio Cassano si prendeva 2 lire, le faccio un esempio, no? La Juve non so se ci ha provato, poi il fatto che tutti dicono Toni non costa nulla, ma Toni prende comunque un bel ingaggio, non è che non costa proprio nulla. Sì, Toni però è una situazione, è una soluzione d'emergenza, cioè in questo tempo, ma l'ha spiegato ieri in maniera molto chiara e molto decisa Andrea Agnelli, in questo momento non vogliamo mettere soldi sul mercato, i soldi sul mercato... Sappiamo che questa stagione è complicata e sarebbe stata complicata. Se l'anno prossimo, a quest'ora, in questo momento, saremo nelle stesse condizioni, allora sarà davvero un problema. Ora era grosso modo previsto. Poi è chiaro che con l'autunno che ha passato la Juventus, estremamente positivo, pareggia in casa dell'Inter, vince in casa del Milan... In un campionato così bizzarro, sogni di scudetto erano autorizzati e forse sono stati spesi in maniera eccessiva. Però insomma, varrebbe la pena insistere su questo progetto, vedere dove porta, no? Perché se è vero che la Juventus tornerà all'altezza del suo passato dopo la prossima estate di mercato, aspettiamo e vediamo. Adesso non c'erano quattrini da investire. Cassano mi sembra un discorso molto particolare che non farei entrare in questo conto. In questo conto può entrare Pazzini. Però può essere vero quanto adombrato prima da Marco Ansaldo, e cioè che la Sampdoria Pazzini alla Juventus non l'avrebbe mai data per questioni di rapporti personali tra Garrone e chi lo ha abbandonato come Marotta e De Neri. Questo non posso saperlo, però può essere una chiave di lettura di sta storia. Ci fermiamo un attimo, poi Davide provincia di Lecco e tutti gli altri che vorranno intervenire. 800 24 00 24, numero verde. Nonostante la più grande crisi del nostro tempo, ogni giorno è una sfida che devo vincere. Milioni di artigiani e piccoli imprenditori lavorano. Se non ci fossero quelli tosti come noi che davvero rischiano in proprio, che fine farebbe questo paese? E producono. Sì, anche orgoglio. Affrontare il mondo, innovare, competere, dare lavoro. Sono donne e uomini pieni di coraggio. È l'Italia che sostiene l'Italia. CNA è al loro fianco. Chiunque ce l'abbia fatta da solo, non era solo. CNA e le imprese. Valore d'insieme. CNA.it. Gli hotel 5 stelle, dormire nel mio letto, i ristoranti esotici, la cucina di Laura, il budget col mio capo, i compiti con i miei figli, il mio Galaxy Tab, la mia nuova stampante Wi-Fi. Con Samsung Galaxy Tab comunichi, navighi e ti diverti ovunque. E in più c'è una stampante Wi-Fi in regalo. Così hai una ragione per stare fuori casa e una ragione per tornare. Promo valida fino al 28 febbraio. Regolamento e info su samsungmobile.it. Riparti alla grande con Fiat 500. Solo ora 500 ti offre incluso nel prezzo l'ESP con il nuovo sistema blocco partenza in salita. E in più 5 anni di finanziamento con anticipo zero e interessi zero. TAEG 222, salvo approvazione SAVA. E su tutta la gamma Fiat, prezzi bloccati solo fino al 31 gennaio. Ciao ciao! Fondi interprofessionali per la formazione. Un esempio di InforGroup di come utilizzarli. Noi di Mondadori Retail ci rivolgiamo a InforGroup. Possiede le metodologie e le competenze per ottimizzare i finanziamenti dei fondi. InforGroup analizza i fabbisogni formativi, progetta i corsi per soddisfare le nostre reali necessità, propone le docenze, gestisce il coordinamento e la rendicontazione. Vai al sito inforgroup.eu, inforgroup.eu, inforgroup.eu. A tempo di sport. Davide, provincia di Lecco, buonasera. Di pronto, buonasera. Non l'ho fatto aspettare troppo, mi spero. No, si figuri. Volevo salutare tutti gli spettatori e radioascoltatori intanto e dire che niente, secondo me c'è bisogno di molta più calma, molta più riflessione nelle scelte, diciamo, di mercato, ma anche societarie della Juventus. Perché diciamo che non dà frutto tutta questa, diciamo, questa fretta nel comprare subito dopo sei mesi, dire che la squadra non va, che non c'è assolutamente possibilità di ottenere risultati, così i soldi vengono spesi male, sì. Non c'è il tempo di ragionare, non c'è il tempo di... Quindi lei la pensa, condivide la linea del presidente, insomma? Ma assolutamente sì, bisogna dare tempo, poi le ripeto, se ogni estate spendiamo 50 milioni di euro e poi... No, ma poi vede, la differenza sta nello spendere o nel buttarli via, perché mi pare che negli ultimi 2-3 anni siano stati discretamente buttati via, no, i soldi, perché... Acquisti molto costosi di cui restano soltanto i conti da pagare. Sa benissimo anche lei, è inutile star qui a fare l'elenco dei vari Almiron, dei vari Diego, dei vari giocatori che sono transitati, molto costosi, che sono arrivati alla Juventus. Mi pare invece che questa dirigenza ha speso sì molti soldi, ma li abbia anche spesi in maniera discretamente proficua, no, con quelli che sono arrivati. L'unico che mi lascia poco convinto e per cui sono stati spesi molti quattrini è Martinez, che però è sempre stato rotto, oggi gioca a titolare, vediamo da qui alla fine cosa combina. Però io grosso modo sono d'accordo con lei, la butterei quasi in musica. Guardiamo i risultati sportivi, siamo usciti dall'Europa League con 6 pareggi, siamo usciti dalla Coppa Italia come tifoso, come primo tifoso, mi girano le balle, perché mi piace vincere, l'unica cosa che conta è vincere. E la voce di Paolo Belli è quella di Andrea Agnelli. Ciao Paolo! Ciao, buonasera a tutti. Immagino che siano girate le balle anche a te, per usare la sottile parafrasi del dottor Agnelli. Ma io... Mi stanno girando da diverso tempo, perché chiaramente tutti gli amici interisti sono dal 2006 che ci stanno prendendo per i fondelli, sì. E questo mi gira, perché credo che sia molto irrispettoso e credo che siate d'accordo con me sul fatto che noi immeritatamente stiamo pagando delle colpe molto grosse e non credo che siano da pagare solo noi, le abbiamo pagate e sono colpe che stiamo pagando, ma veramente enormi, perché in 5 anni noi, al di là della Serie B, c'è sponsor che sono scappati, che se ne sono andati, non avere la possibilità di raggiungere la Champions, cioè sono veramente milioni e milioni di euro che non si riescono ad avere nelle casse, sì. E quindi sfido qualsiasi altra società a rimanere in piedi come è rimasta la Juventus, avere dei dirigenti come abbiamo, che comunque continuano a credere nel progetto, e quindi mi girano le scatole per questo, perché la gente bisogna lasciare lavorare. Credo che il nostro presidente stia lavorando bene, come tutta la sua equipe, e bisogna lasciarli lavorare e smetterla di prendere anche... Ho letto anche oggi una così una cosa un po' irriverente, un po' uno sberleffo da parte di qualcuno che è più grande di noi in questo momento e ha preso in giro il presidente. Sì, Moratti che ha detto il giovin, mi spiace di annoiare il giovin signore, però Paolo, quelle discussioni sarebbe meglio lasciarle, relegarle al passato. Esatto, perché io mi metto sempre nei panni degli altri. E sfido chiunque aver preso un tram in faccia come abbiamo preso noi, e credo che adesso non è che uno debba stare lì di poverino, però magari lasciateci stare, perché più oltre il danno la beffa, insomma. Non so se sono... lasciateci stare, giusto, è corretto, esatto, è corretto. No, ma anche perché si diceva prima, insomma, la grande tramvata che ha preso la Juventus non sta tanto in quei due scudetti che vi ha levato, no? Secondo me sta nel fatto che vi hanno rasi al suolo, e quindi se ti hanno raso al suolo e allora va via Ibrahimovic, van via tutti i giocatori, fai la Serie B, poi da lì, dall'essere raso al suolo a costruire una squadra da scudetto, ci vuole del tempo e ci vogliono dei quattrini. Guardate che la squadra di Zidane, che è stata secondo me una delle più belle della Juve, è stata costruita in 10 anni, non è stata costruita in 20 minuti, perché non so, andava via Deschamps, arrivava Davis, andava via Zambrotta, arrivava, cioè, capito? Certo, è una roba, certo. Quindi noi, cioè, sfido chiunque, quella è una tramvata vera, cioè, quindi io ritengo che sì, anche un interesse per l'Inter, il Milan, eccetera, che la Juve torni a essere la Juve, perché è un fatto di veramente di soldi, perché se in un campionato dove c'è di fare 5 incassi grossi ne fai 2, e se ne fai 5 merito anche di avere delle squadre potenti come importanti come la Juve, perciò lasciateci lavorare, lasciateci in pace. Se volete prenderci in giro, fatelo, però finché uno spottò. Quando comincia a essere proprio uno sberleffo, non ci sto. E quindi mi girano le balle anche. No, senti, ma tu hai ragione. È chiaro che i tifosi con la bava alla bocca non sono d'accordo, però il calcio italiano ha bisogno di una Juventus che sia da scudetto, ha bisogno di una grande Juventus. Ma ce l'ha bisogno il calcio italiano per la sua immagine, per questioni, certo, di quattrini. Anche per economicamente tutto per l'Italia, sai. Sì, perché sì, voglio dire, alla fine poi le televisioni vendono un prodotto, il prodotto Juventus è un prodotto che manca anche all'Italia dal punto di vista economico. Poi è chiaro che parliamo di sport, è solo un gioco ed è giusto che chi sbaglia paga, ma non credo che questa cosa che stiamo pagando noi sia giusta, e perciò almeno, come ho detto prima, lasciateci impare, ragazzo lasciami lavorare. Paolo, per chiudere, lo scudetto lo vince il Milan? Sì. Sì, credo anche meritatamente, perché comunque Allegri sa il fatto suo, la programmazione della società è una programmazione intelligente, non è partita da oggi, è partita da diversi anni, e giusto così. L'Inter credo che abbia un momento di come posso dire, di rilassatezza, che ci sta, no? Che uno si rilassa, ha vinto tante cose, però se la giocheranno sicuramente loro due. Io mi auguro il terzo incomodo, il Napoli. Sì, e lo sarà, anch'io me lo auguro sinceramente, perché rappresenta la fantasia, no? Bravo, bravissimo, e poi rappresenta anche il fatto di lavorare bene, perché De Laurenti sta lavorando veramente alla grande, lui e tutti coloro che sono nel progetto Napoli, e poi gioca da Dio, mi diverte guardarlo, è una città che mi è sempre stata nel mio cuore, quindi forza Napoli. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Buon viaggio e buon lavoro a Paolo Belli, che forse è anche caduto, è caduta la linea, naturalmente non lui. Grazie a Paolo Belli, adesso torno agli ascoltatori con grande piacere. Fernando da Torino, buonasera. Sì, pronto, buonasera gente. Dica. Senta, io intanto mi devo complimentare con lei per la sua pacatezza, la sua cortesia verso gli spettatori. Grazie. C'è chi non è d'accordo, ma fa niente, mi piace così. Un momento fa. Paolo Belli, cioè? Io sono tifoso juventino, sono perfettamente d'accordo in tutto. Mi lasci dire però che io ho conosciuto l'Inter di Moratti padre, che era un vero signore. Io ammiravo molto quella squadra, che era veramente una grandissima squadra, e non mi piace tanto questo Moratti, che dire la verità mi piaceva qualche anno fa, mi sembrava un signore, mentre invece è un personaggio che è diventato molto deludente e pochissimo sportivo. No, diciamo, tifoso come tifoso lei, come tifoso Andrea Agnelli. Diciamo che quando cominciano a punzecchiarsi sulle ben note questioni, perdono tutta la loro eleganza. Questo è indiscutibile, e sono alla fine discussioni ormai un po' stantie che porteranno a poco nel futuro e dell'Inter e della Juventus. Piuttosto, io ripeto quanto ho detto prima, il calcio italiano, al di là del tifo, delle bandiere, degli odi sportivi che ci stanno, perché il calcio è il Palio di Siena, insomma, quindi io capisco il tifo contro e capisco le prese in giro e capisco gli sfottò, perché tutto questo è parte del gioco. Però se lasciamo perdere tutto questo, il calcio italiano, e lo ribadisco, secondo me ha bisogno di una grande Juventus, di una Juventus competitiva, per amarla o per odiarla, per batterla per sportivamente, però una Juventus depressa come è stata in questi anni, credo che insomma anche i tifosi contro si sentano un po' più tristi, non lo so, questa è la mia sensazione. Angelo Milano, buonasera. Buonasera, volevo dire, sono io juventino, sì. Niente, già vedere quest'anno almeno ci diamo un po' più da fare. L'anno scorso vedevo anche il pareggio contro il Siena, gente che usciva ridendo, così almeno quest'anno vediamo, sono un po' più piacevoli le partite. E diamo tempo a questa dirigenza di lavorare, perché comunque quindi lei è della, sposa la linea di sì. Societaria, sì, diamo tempo. Logico che se già partire con quattro attaccanti ultra trentenni, magari già durante questo l'estate avessero comprato qualche giocatore di un po' più giovane, così forse magari si sarebbe fatto male lo stesso, perché la fortuna è cieca, però sì, magari avremmo avuto un po' più di... No, beh, ma certo, gli investimenti estivi sono stati fatti nel modo che lei sa, e secondo me sono stati anche abbastanza funzionali alla costruzione della squadra, anche per ragioni anagrafiche. I giocatori sono stati presi, sono tutti mediamente giovani, quindi garantiscono futuro. Evidente che si sapeva dall'inizio, no, che un grande attaccante mancava, poi si è fatto male Quagliarella e ciao, anche perché... Poi, oltre ad essere molto in là con gli anni, sia Iaquinta che Amauri in parte, Del Piero certamente, sono tutti in un modo o nell'altro dei giocatori a rischio, e quindi non possiamo rimanere granché sorpresi se le partite che fanno non sono poi tantissime. Ci fermiamo per il traffico, poi Salvatore da Roma. Nuova Passat, sempre un'idea avanti. Scopritela dai concessionari o su Volkswagen.it. Vi presenta Strade in diretta. Trafficata la 22 del Brennero con rallentamenti tra Rovereto Nord e Alavio verso Modena e la 5 fra Châtillon e Quincinetto in direzione Torino. Traffico intenso anche sul tratto milanese della 4 con code e rallentamenti verso Brescia. Circolazione rallentata poi sul grande raccordo anulare tra Appia e Casilina in carreggiata esterna e tra Prenestina e Ardeatina in interna, trafficata anche la tangenziale di Napoli verso Capodichino. Passiamo infine alle condizioni meteo: deboli nevicate al nord in Emilia e tra Piemonte e Liguria, ma non ci sono problemi di circolazione, piogge sparse invece su gran parte del centro-sud. È tutto, a più tardi. Promo 24. Chi ha scritto la storia della Station Wagon non può che scriverne anche il futuro. Un futuro conveniente, perché nuova Volkswagen Passat ha il valore residuo più alto della sua categoria e intervalli di manutenzione ordinaria ogni 30.000 km, che significa minori costi di gestione e fermi macchina meno frequenti. Passat Variant 1600 TDI Blue Motion Technology percorre ben 25 km con un litro nel ciclo extraurbano, con minime emissioni. Passat è l'unica disponibile anche con motore 2000 TDI da 170 cavalli con cambio automatico di SG e trazione integrale 4Motion. La nuova Passat è da scoprire dai concessionari o su Volkswagen.it. A tempo di sport. Poi lo sa benissimo anche Del Neri, no? Che con Alessandro Del Piero, dove vuoi andare? Dove vuoi arrivare? L'ha detto lui. Del Piero è sicuramente un campione, un giocatore molto importante, deve essere autore per un giocatore, e accendere un cielo e ne sono fiero, però credo sia una cosa importante, un giocatore che presto lo sapremo e vedremo, perché saremo. Tutto chiaro, no? Tutto chiaro il pensiero di Del Neri su Del Piero. Naturalmente questo non era il vero Gigi Del Neri, ma una straordinaria imitazione di David Pratelli, una delle sue ultime trovate, veramente da morire da ridere. Salvatore da Roma, buonasera. Buonasera. buonasera a voi e a tutti lo studio e ai vostri telespettatori. Dica. Ascolti, niente, io sono un simpatizzante della Roma, diciamo così. Sì. E, niente, ma io... perché tutti mi scrivono e mi dicono che la Roma è tenuta in piedi dagli arbitri? No. Ma perché? È la volpe che non, quando dice che non è l'uva acerba che non arriva l'uva, no? Ah, è così. No, il discorso è un altro. Io invece, tutti quanti parlano dell'Inter, delle varie squadre, ma secondo me anche la Roma ha le sue buone possibilità di agganciare il Milan, anche perché ha tutti gli scontri diretti in casa, sta giocando molto bene. E secondo me oggi era una partita che avrebbe potuto vincere tranquillamente a Bologna. E credo insomma che abbia un organico non indifferente, e quindi secondo me è una delle pretendenti al titolo, anche perché i numeri ancora dicono questo. E niente, poi la chiamavo numeri organico, mio caro, numeri organico, perché io credo che c'è un attaccante, ad esempio, che potrebbe davvero cambiare la vita anche a questa Juventus depressa, anche in questo momento, non sia Pazzini, ma sia quel Mirko Vucinic che o gioca o prende o s'arrabbia e prende a calci la borsa del massaggiatore. Vucinic è un giocatore mostruoso, ma per dirne uno, Borriello segna ogni partita, Totti e Totti, Menezza in crescita, eccetera, eccetera. C'è un organico offensivo come quello che ha la Roma, ma la Juventus lo sogna e credo se lo sognerà anche l'anno prossimo, dopo il mercato. Dica. Niente, quindi volevo sapere anche se c'era qualche novità per quanto riguarda la società. Questo lo chiedono in molti. Non ci sono grandi nuove, no? Al di là delle manette scattate l'altro giorno, ma questa è una storia passata. No, più che altro si parla di lunedì, che è l'ultimo giorno che devono depositare le offerte. Sì, quindi non posso che dirle domani lo scopriamo. No, non posso che dirle domani lo scopriamo. Certo, è una trattativa coperta da una fitta cortina fumogena, anche per ragioni ovvie. Sappiamo bene come la società, come la Roma sia una società quotata in borsa, dunque sono cose che richiedono anche da parte dei diretti interessati, degli attori protagonisti, estrema cautela. Certo, è una vicenda fin troppo lunga per essere vera, è questa della cessione della Roma. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Dalla Spagna. Filippo, visto che siamo ormai al cazzeggio, io volevo farti sentire una cosa. Cazzeggio spinto, Volevo farti sentire una cosa, un bellissimo siparietto che mi sembra sia stato pescato, registrato una notte da Sky. Protagonisti, attori protagonisti in questo caso, Mino Raiola e Mario Balotelli. Sentiamo. Il futuro lo sa solo Mario scrive il suo futuro. Pazza intera, ma... Mario scrive il suo futuro. Il futuro di Mario ce l'ha nelle gambe. Lui decide, Mario fra 2 anni decide dove andare, va dove vuole, rimane al Manchester, non rimane al Manchester, perché Mario è l'unico giocatore che potrebbe vincere il pallone d'oro 2, 3, 4 volte. Messi veramente deve stare attento. Lo dice Raiola, sembra quasi una minaccia. Messi deve stare attento, perché Balotelli vince i prossimi 3 o 4 di fila. No, ha detto no, dai, ha detto potrebbe vincerli. No, adesso Messi deve stare attento, ma non ha detto ha detto vince il prossimo, ha detto vince i prossimi 3 o 4. Sì. Vabbè, comunque, però prima ha fatto una premessa, dipende da Balotelli. Sì. Non ha torto. Prima di vincere deve giocare, che mi sembra che giochi piuttosto poco. Sì, abbastanza poco, sì, pochino. Però vabbè, lì Mourinho ha detto che Iniesta non doveva vincere il pallone d'oro perché aveva giocato poco, quindi potrebbe trovare anche un appoggio. Sì. Però prima deve giocare, e comunque ha ragione Raiola, dipende dalle sue gambe. Certo. Però vabbè, io ho rimesso anche un po' dalla sua testa, forse. Però, no, ma poi dicevo, attori protagonisti, in realtà l'attore protagonista era ovviamente Mino Raiola, che è il vero dirigente. Una buona spalla, che aveva. Esatto, la spalla, quello che cantava in sottofondo Pazza Interama era Mario Balotelli. Sono un ottimo. Non ha ancora capito per chi ti fare. Sì, una grande coppia di cabarettisti, non ha ancora capito bene per chi ti fare Balotelli. Ma no, ma lui lo sa benissimo per chi deve ti fare. Manchester City, no? Altro che tu, per chi tifi invece? Tu per chi tifi? Per il Real o per il Barça? Ecco, belle domande queste che bella, si sentono qua. No? Dopo, qui che non sai come sono, peggio che Guerci e Ghibellini. Sì. No, io tifo per la Liga, che è un campionato già spento. Ci manca solo che stasera il Real Madrid non vinca Osasuna, così sia sì, Pamplona, ormai sono diventato spagnolo, e siamo nei guai, insomma. Poi voglio vedere cosa scrivi. Poi voglio vedere cosa scrivi sulla Gazzetta, esatto. Perché a quel punto ti resta solo Mourinho, non hai più niente da scrivere. Sì, ecco, l'unica cosa è chiaro che se dovessero perdere ancora punti, sì, Mourinho dovrà fare dei fuochi d'artificio per continuare a tenere alta la tensione, e allora quindi forse si scriverà ancora di più. No, però, ma, insomma, sai, ecco, ma da questo punto di vista hai ragione, no? Perché noi stiamo tanto a piangerci addosso sul livello del nostro campionato, eccetera, eccetera. Io, ad esempio, oggi pomeriggio mi sono divertito un sacco. È l'Inter che va sotto 2-0, poi rimonta, vince 3-2, il Napoli vince 4-0. Insomma, fuochi d'artificio dalle tue parti, quando giocano Reale e Barça, metti tre in classifica, salvo errori o omissioni, insomma. Sì, l'unica cosa è che il Real Madrid nelle ultime quattro partite ha fatto un gol cada una, quindi sì. Quello è un po', non sta viaggiando a grandi ritmi, però teoricamente vince quasi sempre. Il Barcellona neanche a parlarne, no, e poi soprattutto è l'abisso che c'è dietro, perché adesso a me, oltre al duello, che è un duello appassionante, che però è lì appesa a un filo, perché già siamo a quattro punti, se poi diventano di più è un casino, e dietro non c'è niente, almeno in Italia vuol dire ci sono 4-5 squadre che se la giocano e possono creare qualche cosa, o comunque tengono vivo il campionato. Poi dopo, senza entrare nel merito, meglio questo meglio l'altro, però a livello di sportività, a livello di neutrali, almeno c'è qualcosa. Qui siamo, è un problema, insomma, al di là di avere probabilmente la squadra migliore del mondo, che è il Barcellona. Sì, oggi scrivi il titolo di uno dei tuoi due pezzi, quello su Mourinho. Mourinho allontana Valdano, il rapporto non è importante. Che vuol dire? L'ha detto lui dice: ah, siete ossessionati, così. Però in realtà poi dopo, la frase dopo, gli dà una mezza mazzata in testa di nuovo. E lui dice che non è importante, ma in realtà lo è, nel senso che lui ha le sue idee di come andrebbe gestito questo club, di con chi vuole avere a che fare lui, del potere che spetta lui e quello che spetta ad altri, e in tutto questo con Valdano è entrato in rotta di collisione. Però bisogna vedere, perché Valdano è comunque l'uomo di Florentino Perez, quindi lui parla sempre molto bene del suo presidente, però andando contro al, diciamo, primo vassallo del presidente, diciamo, forse di riflesso ci potrebbe essere un effetto domino interessante, perché Valdano, quando c'è stato il primo scontro tra Valdano e Mourinho, Florentino ha difeso Valdano, poi vedremo come va a finire, però quindi la cosa resta interessante, che ne dica Mourinho, per sì, noi è interessante. Sì. Ah, non c'è dubbio. Io stavo leggendo un messaggio di Marina da Milano. I messaggi delle ascoltatrici sono rari come le perle qui da noi, come ben sai, e è vero che l'abbiamo buttata in cacciara, ma non vorrei buttarla in politica. Marina mi scrive: concordo che il calcio sia il paglio di Siena per noi animali pensanti e in posizione retta, ma la prego lo dica a voce bassa, perché non vorrei che la ministra Brambilla dicesse che va abolito. Cose nostre, Filippo, logiche interne che non riguardano, per fortuna, te che vivi lì in Spagna. Volevo chiederti ancora questo, ma a Barcellona la stagione che sta facendo Ibrahimovic, padrone indiscusso, capo, leader e forse anche presidente attualmente del Milan, passa inosservata? No, non passa inosservata, diciamo, scrivono sempre, i giornali di Barcellona hanno comunque una pagina, una mezza pagina sempre sul calcio internazionale, quando Ibra fa bene lo dicono, però questo conferma, come si può dire, gli serve che Ibra faccia bene, perché siccome hanno buttato via un sacco di soldi con lui, serve per dire: no, noi non è che abbiamo comprato un asino, un brocco, abbiamo comprato un grande giocatore che poi dopo alcuni dicono si è comportato male, altri dicono che più benevoli, dicono non si è adattato, non andava bene per questo gioco, dipende dal tono, da quanto lo vogliono criticare, però se ne parla, e come, perché era chiaro che quando Barcellona spende quello che spende, cioè quegli 80 milioni di euro, non è che li ha spesi così per comprare Juan Fran o Pagliani, insomma. Sicuro. Filippo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, abbraccio. Un abbraccio. Ciao, grazie a Filippo Maria Ricci, con cui chiudiamo il nostro programma, anzi il nostro programma lo chiudiamo purtroppo con una notiziaccia, però è la cronaca la impone, perché è già da qualche edizione del giornale radio che, diciamo, un atleta italiano, un canoista italiano espulso dal ritiro degli azzurri in Australia, ebbene è saltato fuori il nome di questo canoista italiano, Franco Benedini, che è stato appunto espulso dal ritiro dopo che nella sua stanza sono state trovate sostanze vietate dal codice antidoping della WADA. L'azzurro quarto ai giochi di Pechino aveva firmato il giuramento con il CONI, come tutti gli atleti di interesse olimpico, ma alla luce della vicenda verrà subito estromesso dal club olimpico. Ci fermiamo qui, poi torniamo dalle 8:30 alle 9 per raccontarvi la giornata di basket. A più tardi.